Italia in controluce. 13:34 minuti, buongiorno da Alessio Maurizi, Italia in controluce, benvenuti all'appuntamento su Radio 24 con le storie che non avete sentito altrove. A parlarne ora con il caldo che fa sembra davvero strano, eppure solo 7 mesi fa in Veneto c'era l'alluvione, ricorderete, l'alluvione del Bacchiglione, dopo molte polemiche per gli aiuti di Stato promessi alle famiglie e alle imprese in una zona dove si concentrano moltissime aziende messe in ginocchio dall'acqua e dal fango. Alice Cason è tornata a Caldogno, nel Vicentino, tutto apparentemente sembra al suo posto, però c'è gente che ancora aspetta la seconda rata dei risarcimenti promessi dalla regione. Sentiamo. Adesso è tornato tutto come prima, anche se adesso magari ti mancano delle cose, le cerchi, allora ti ricordi. Nell'appartamento sono stata fortunata che non mi è entrata tanta acqua, però avevo il garage e l'avevo messo tutte quante le cose estive, quindi adesso magari vai ad inizio a cercare le magliette, non le trovi e allora ti rendi conto che è andato tutto perso con l'acqua. Nel bar di Marina, a Cresole, una frazione di Caldogno nel Vicentino, tutto sembra come prima. Però le piastrelle sul muro sono di due gialli diversi, fino a 1,5 metri giallo scuro, in alto giallo canarino. È il segno dell'acqua. 7 mesi fa, il 1° novembre, il fiume che scorre di fianco alla piazza del paese ha rotto l'argine, allagando Cresole e alcune zone di Caldogno per poi arrivare fino a Vicenza. Oggi il Bacchiglione sembra un canale più che un fiume e non ci si capacita abbia potuto fare un tale disastro. 22 milioni di euro e danni stimati solo nel comune di Caldogno. Passando per Cresole si vede ben poco ormai degli effetti dell'alluvione, giusto qualche ruspa al lavoro nel campo sportivo o lungo le strade. Dire come prima è un po' troppo adesso, però diciamo che siamo a buon punto dal punto di vista lavori. Poi dal punto di vista soldi per pagare i lavori, questo no? Quando una strada è sistemata magari non è ancora pagata, ecco, questo per dire che c'è sempre bisogno di aiuti. Eleuterio Marinoni è uno dei 6 soci fondatori del comitato Caldogno Avanti. In accordo con il comune, dai giorni successivi all'alluvione si occupa della raccolta fondi per il paese vicentino. Finora nel conto corrente comunale sono arrivati 450.000 euro. La regione Veneto ha raccolto complessivamente più di 5 milioni in beneficenza. Marcello Vezzaro è il sindaco di Caldogno, confermato alle recenti amministrative con il 56% dei voti. I cittadini adesso hanno bisogno di avere la sicurezza. Già hanno investito, perché per riprendere sì, hanno avuto ristoro da parte della regione attraverso il comune di cui i fondi sono arrivati, ma gran parte l'hanno messa loro, insomma, perché il ristoro che è arrivato, noi abbiamo distribuito un 30% dei danni stimati. Sono arrivati 8 milioni e 100 circa, 30% di questi 23 milioni. Che una parte abbiamo dovuto utilizzare per tutti i lavori di sommorgenza, cioè all'inizio della prima settimana tutta la polizia, noi abbiamo speso milioni di euro per fare tutto quel lavoro, solo per portare via rifiuti, fango, detriti, pulire i tombini, pulire le case, portare via le auto. Senza l'aiuto di una persona che nemmeno conosceva, che le ha regalato mobili nuovi per sostituire quelli inutilizzabili ammuffiti dall'acqua, la signora Nives non avrebbe potuto riaprire il negozio di vestiti che era dei suoi genitori. Ai primi di novembre ci si veniva solo in barca alle Mercerie Polato. Qui era un fiume proprio, noi avevamo avuto il magazzino proprio pieno fino in cima, perciò è andato distrutto tutto completamente. Invece nel negozio sono gli 80 centimetri. Voi avete avuto danni per quanto? Per 110.000 euro. Abbiamo avuto un contributo di 17.000 euro. E per il resto lo stiamo aspettando, perché ci avevano promesso il 75%. Dalla regione ancora nessun cenno, eppure sembrava che una seconda parte dei fondi dovesse arrivare prima di Pasqua. I sindaci degli 11 comuni più colpiti hanno intenzione di chiedere a breve un incontro con il commissario straordinario per l'emergenza, il presidente regionale Luca Zaia. Nel frattempo quasi tutte le famiglie di Caldogno sono tornate nelle proprie case, compresa quella di Ombretta, che ricorda così l'alluvione di novembre. Ci sono entrati quasi 1,80 m d'acqua, è stata sfondata anche la porta d'ingresso, noi eravamo usciti dalla finestra, perciò è entrato di tutto in casa ed è uscita tantissima cosa, c'era un disastro e perciò scavalcando la finestra fuori c'era già l'acqua che arrivava ai ginocchi, siamo usciti insomma con i bambini, e abbiamo scavalcato la rete, abbiamo aspettato dai vicini fino alle 5-6 di sera e poi sono venuti a prenderci. Italia in controluce. Ora invece una storia che viene dalla Campania, a Trentola Ducenta in particolare. I protagonisti sono un immobile confiscato alla camorra, una casa famiglia per giovani tolti dalla strada e un sindaco che si mette di traverso, Romolo Napolitano. A Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, si litiga sui beni confiscati alle mafie. Una casa appartenuta a un boss dei casalesi, infatti, è al centro di una disputa tra il neoeletto sindaco e la compagnia dei felicioni della comunità di Capodarco. Sentiamo cosa è successo nelle parole di Fortunata D'Agostino, responsabile della casa famiglia casertana. Il giovedì scorso ci è stato notificato dal neoeletto sindaco di Trentola la revoca del comodato d'uso del bene confiscato, nel quale noi ci siamo dal 2002, da marzo del 2002, con una casa famiglia. Voi avevate avuto una proroga dal prefetto, è così? Avevamo chiesto una proroga al commissario prefettizio perché partecipavamo ad un bando finanziato dalla Fondazione per il Sud di autosostenibilità per i beni confiscati alla camorra. Si trattava di un impianto fotovoltaico e, oltre ad apportare una miglioria al bene, l'economia diventava economia sociale, in quanto un profitto sarebbe andato a finire in un fondo e ad usufruirne sarebbe stato tutto il sociale. Michele Griffo, più volte sindaco di Trentola, è stato rieletto la settimana scorsa. Tra i suoi primi 10 atti c'è la sospensione della proroga alla compagnia dei felicioni per l'utilizzo del bene confiscato alla camorra. Sentiamo la versione dei fatti del sindaco. Allora, io non ho revocato perfettamente niente. Io ho fatto valere un diritto del comune, perché il comune è proprietario di quell'immobile. Può eventualmente azionare e dire, almeno avere il diritto contro questi qua che dire che loro combattono la mafia e la camorra, di dire posso l'anno prossimo anche non prorogare questo contratto. Io vorrei capire chi è il camorrista. Allora, quel contratto scatta l'anno prossimo, io dovrei in un certo modo, insomma, permettere a questa comunità di andare de plano nella proroga. Io non posso eventualmente verificare e dire, scusate, vediamo altre cose. C'è da dire in verità che al momento non sono ancora state avanzate richieste da parte di altre associazioni per l'utilizzo di quel bene. Ma cosa fa la casa famiglia della compagnia dei felicioni? Ascoltiamo l'audio di una loro presentazione postata sul web, dove si sente la testimonianza di un uomo che da piccolo è stato ospite della struttura e quella di un'educatrice che ci lavora. Questa casa famiglia da tanto mi ha aiutato, perché io prima comunque a scuola non andavo, stavo in mezzo alla strada. Cioè, quindi prima non c'avevo futuro, oggi grazie a loro un futuro lo sto trovando. Allora, con loro ovviamente ti metti in discussione tutti i giorni, quindi è un crescere con loro, perché ti insegnano comunque cose che magari non dai per scontato. Ma torniamo al bene confiscato, che già nel 2002 si trovò al centro di una disputa simile. Anche quella volta sindaco del paese era Griffo e la casa era utilizzata dalla compagnia dei felicioni. Fortunata D'Agostino. Nel 2002 il sindaco, quando ci diede il bene all'associazione di Capodarco, a fine mandato elettorale, poi rieletto ce lo revocò adducendosi motivazioni che la casa era molto grande per noi, per cui noi ricorremmo al TAR e il TAR con una sospensiva, quindi sospese l'atto sindacale. Dopo 10 anni si è verificata la stessa cosa. Il sindaco, dal canto suo, ha le idee chiare su quell'episodio e lancia pesanti accuse verso la casa famiglia. Sentiamo. Per quanto riguarda eventualmente 10 anni fa, è vero che io la volevo revocare, perché mi accorsi dopo che avevo affidato a questa comunità, che era una comunità che non serviva ai fini sociali, perché faceva sempre per fine di lucro. Questa comunità crede che nel giro di 10 anni avrà fatto un bel giro di più di 2 milioni di euro, pari a circa 4 miliardi di vecchie lire. Ma poi di chi parliamo? Uno che non paga l'acqua, che non c'è il misuratore, che si truffa l'acqua del comune, dei cittadini di Trentola, o che uno che non è inserito nei ruoli dell'altezza urbana. Ma noi stiamo scherzando veramente, ma chi parliamo? Vi posso garantire che se resto sindaco, e se resti in vita la Capodac a Trento ha chiuso e deve ringraziare il Dio, se no li denuncia per truffa per l'acqua e per il rettezzo urbano. Insomma, il problema per il sindaco Griffo sarebbero i soldi che la casa famiglia prende dalle istituzioni per i bambini e che la renderebbero una società a fini di lucro. Sulle accuse per l'acqua e la tassa sui rifiuti le due parti discuteranno nelle sedi opportune. Cerchiamo di capire invece come risponde la compagnia dei Felicioni sui soldi ottenuti dalle istituzioni. C'è una nota del nostro sindaco nella quale si dice che noi siamo un'associazione senza fini di lucro ma che di fatto percepisce delle rette per i bambini accolti. Questo è recepito a livello nazionale, l'ha recepito la regione, per cui noi stiamo nella legge. Mercoledì prossimo la Commissione regionale Campania sui beni confiscati ha convocato le parti per trovare una soluzione. Speriamo che dopo questo incontro a sorridere sia la società civile che lotta contro la mafia e ne riutilizza i beni e non la camorra che di storie così ne sentirebbe volentieri tutti i giorni. Staremo a vedere come andrà a finire questa storia. Intanto continuate a seguirci e soprattutto scriveteci controluce@radio24.it. Buona giornata.